le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sono 8.000 gli evasori totali scoperti nel 2014, 1 miliardo e 800 milioni gli appalti di appalti irregolari e poi frodi al sistema sanitario e fondi assegnati irregolarmente. Tutto questo nel rapporto annuale della Guardia di Finanza. Nella bozza del documento di economia e finanza anche la stima sulla disoccupazione, giù dello 0,5% quest'anno. I tagli del 2015 colpirebbero principalmente Roma, Firenze e Napoli, di questo parleremo più avanti anche col presidente dell'ANCI, Piero Fassino. Tsipras a Mosca per un incontro con Putin, in agenda temi economici, ma a quanto pare non un prestito russo ad Atene. Dal Cremlino forse sconti per il gas e rimozione dell'embargo alimentare. Ci sono ancora migliaia di persone in trappola a Yarmouk, campo profughi vicino a Damasco sotto l'assedio dell'ISIS. Centinaia di famiglie provano a scappare, sono stati uccisi anche operatori umanitari. La denuncia del figlio dell'uomo picchiato a Roma da un tassista, tema che come sapete ha affrontato anche Gianluca Nicoletti poco fa. I colleghi lo hanno coperto e gli hanno consigliato di scappare, così racconta il figlio dell'uomo, lo sentiremo più avanti nel corso della trasmissione. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it, se volete commentare anche a proposito della trasmissione e delle singole puntate potete utilizzare il nostro sito www.radio24.it che come sapete da poco si è rinnovato e consente anche questa opzione. Ogni giorno poi pochi minuti prima della trasmissione vi diamo una piccola anteprima su Periscope, che è questo nuovo servizio offerto da Twitter per una diretta live in video, lo trovate seguendomi anche su Twitter, Simone Spezia, si scrive Simone Spezia. In apertura dunque il rapporto annuale della Guardia di Finanza, il servizio. Nel 2014 sono stati più di 13.000 i reati tributari scoperti dalla Guardia di Finanza, che ha anche sequestrato beni per un valore complessivo di 1 miliardo e 200 milioni, quasi 8.000 invece gli evasori totali scoperti, 12.000 i lavoratori in nero, oltre 3.700 le persone denunciate per reati contro la pubblica amministrazione. Sono i dati che emergono dal rapporto annuale delle Fiamme Gialle, che lo scorso anno hanno anche effettuato verifiche su 220 appalti pubblici per un valore complessivo di circa 4,6 miliardi di euro. Di questi, uno su tre è risultato irregolare, assegnato in modo illecito. Questa attività di controllo ha portato alla denuncia di 933 persone, 44 delle quali sono state arrestate. Tra frodi ai finanziamenti pubblici e sprechi nella pubblica amministrazione, lo Stato nel 2014 ha subito un danno di 4,1 miliardi, sottolinea la Guardia di Finanza, che per quanto riguarda invece la lotta alla criminalità organizzata, lo scorso anno ha sottratto alle mafie beni per 4 miliardi 129 e infine le tonnellate di droga sequestrate. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo a proposito di evasione il colonnello Gianluca Campana, che è il capo dell'ufficio tutela delle entrate della Guardia di Finanza, intervistato da Raffaella Calandra. Oltre 8.000 soggetti che pur svolgendo attività economica non avevano presentato la dichiarazione dei redditi. 13.000 sono stati anche denunciati per reati tributari, quindi per le ipotesi più gravi, in relazione al quale abbiamo proposto alle procure della Repubblica il sequestro di somme corrispondenti alle imposte evase per 3 miliardi e mezzo di euro. Chi sono questi evasori totali? I settori più colpiti sono in modo particolare quelli che riguardano il commercio al dettaglio, quelli che riguardano le costruzioni e i fenomeni di evasione fiscale internazionale, cioè l'operatività in Italia di stabili organizzazioni di imprese estere che operano nel nostro paese senza pagare le imposte, così come anche i casi di soggetti residenti formalmente all'estero ma che di fatto svolgono l'attività commerciale o professionale nel nostro paese. Restiamo su temi parzialmente correlati, ossia la politica economica del governo, che ci porta a tornare sul DEF, il documento di economia e finanza, dopo il primo esame di ieri del Consiglio dei Ministri. Alessandra Schepisi. Sì, è così il testo definito ieri dal Consiglio dei Ministri, verrà varato venerdì prossimo. Non ci saranno né tagli né nuove tasse, ha promesso il Premier Matteo Renzi, mentre la crescita stimata per il 2015 si attesta allo 0,7%, il deficit al 2,6%, la ripresa arriverà con un'accelerazione a più 1,4% nel 2016, più 1,5% nel 2017. Stime che si legge nella bozza circolata in queste ultime ore riflettono valutazioni prudenziali, non escluso che a settembre il governo non possa indicare un tasso di crescita più alto, con possibilità di margini più ampi per la riduzione della pressione fiscale. Una ripresa che, si legge ancora nella bozza, porterà al calo del tasso di disoccupazione, 11,2 nel 2017 fino al 10,5 nel 2019. L'operazione di revisione della spesa varrà invece circa 10 miliardi, ha chiarito Renzi, citando come esempi le partecipate pubbliche, i centri di acquisto. I tagli però non riguarderanno, ha assicurato il Premier, le prestazioni ai cittadini. Per l'opposizione invece si scaricheranno su di loro, preoccupati soprattutto gli enti locali. I comuni hanno già dato dal 2010 ad oggi, tra il taglio dei trasferimenti e patto di stabilità, le città hanno rinunciato a 17 miliardi di euro, ha lamentato il presidente dell'ANCI Fassino. Ora tocca alle amministrazioni centrali. Cerca invece di mediare il sindaco di Firenze, nonché renziano di Ferro, Dario Nardella, è intervenuto a Mix 24. Sentiamo. Ha ragione o torto Fassino? Ma Fassino, quando parla del fatto che in questi anni i comuni hanno dato molto, ha ragione, e io apprezzo l'atteggiamento sempre disponibile che lui ha. Come presidente dell'ANCI confido che cercherà un approdo, una soluzione condivisa, che da un lato consenta al governo di andare avanti sul progetto di risanamento, dall'altro consenta agli enti locali di fare la propria parte senza che vi siano sproporzioni nel carico dei tagli. Il confronto è comunque aperto. Renzi incontrerà i comuni domani alle 8 a Palazzo Chigi. Da Roma è tutto. E grazie Alessandra Scapisi per questi aggiornamenti. Più avanti, come già vi dicevamo nei titoli, sentiremo proprio Piero Fassino, presidente dell'ANCI. Ora la crisi greca. Oggi Alexis Tsipras è a Mosca, dove incontra Vladimir Putin. Sergio Nava, buongiorno. Buongiorno, è in pieno svolgimento a Mosca l'atteso meeting tra Tsipras e Putin, un incontro che cade nel pieno dello stallo dei negoziati di Atene con l'Europa sul debito. Solo ieri, lo ricordiamo, il richiamo di Bruxelles, le misure elleniche vanno nella direzione sbagliata, questo in sostanza il messaggio. Tsipras ha già deposto una corona di fiori al memoriale del Minit ignoto e domani incontrerà anche il premier Medvedev. In apertura del meeting Putin ha sottolineato le radici spirituali comuni tra Russia e Grecia, accomunate dalla fede ortodossa. Nell'agenda ufficiale del bilaterale la cooperazione tra i due paesi, ma sotto traccia ci sono questioni ben più complesse. Dmitry Peskov, portavoce di Putin, ha detto che la questione di una rimozione dell'embargo alimentare a favore della Grecia sarà sollevata nei colloqui, e qui si rischia una discriminazione paradossale nell'embargo russo, sì ai prodotti greci, no a tutti quelli degli altri 27 paesi europei, se così fosse. Il ministro delle finanze russo, Anton Siluanov, ha ribadito che finora la Grecia non ha chiesto ufficialmente a Mosca l'erogazione di prestiti, anche se la stampa ipotizza che Mosca potrebbe indirettamente aiutare Atene concedendo prestiti e sconti sulle forniture di gas. Legata al gas, ed è in agenda oggi, l'adesione di Atene al nuovo gasdotto russo-turco. La Grecia potrebbe ottenere vantaggi dal transito di metano verso l'Europa, garantendosi al contempo la sicurezza energetica. E la buona notizia infine per la Grecia è che oggi è andata bene la collocazione dei titoli di Stato a 6 mesi, piazzato 1.375 milioni di euro, ben oltre il target di 875 milioni, tassi fermi al 2,97%. È tutto. Grazie Sergio Nava. E a proposito di gas, c'è da segnalare un'importante operazione nel settore energetico in generale. Royal Dutch Shell ha chiuso l'accordo per acquisire il produttore di gas, appunto BG Group, per 47 miliardi di sterline, stiamo parlando di circa 70 miliardi di dollari in titoli e contanti. È la maggiore operazione del settore da 10 anni a questa parte. A fusione ultimata, gli azionisti di BG avranno una quota del 19% del nuovo gruppo. Andiamo a Yarmouk, in Siria, dove sorge uno tra i più grandi campi profughi palestinesi, di fatto un vero e proprio quartiere. Prima della guerra in Siria, nel 2011, ci vivevano 150.000 persone. Oggi ce ne sono 18.000, intrapponate in una guerra tra militanti di Hamas e jihadisti dell'ISIS, che tra l'altro controllano ormai l'80% del campo. Una guerra che nelle ultime settimane si è fatta davvero feroce, e ve l'abbiamo raccontato anche ieri: migliaia i morti, migliaia i civili che vivono senza cibo e senza acqua, tra loro 3.500 bambini. Le Nazioni Unite rilanciano gli appelli al cessate il fuoco e per la costruzione di corridoi umanitari. per ora cadono nel vuoto. Cristina Carpinelli ha intervistato Carla Scambr, che è direttore dell'area medio orientale di Save the Children, una delle organizzazioni non governative che ha lanciato l'allarme. La situazione nel campo di Yarmouk è una situazione di desperazione ormai, c'è una catastrofe umanitaria in cui più di 3.500 bambini sono intrappolati sotto assedio ormai per 2 anni, ma adesso in situazioni precarie. Cibo si sta esaurendo, altri servizi per civili, ospedali, le scuole sono distrutte, quindi una situazione di disperazione totale. Nello stesso tempo in cui parliamo ci sono centinaia di famiglie che provano a scappare, mettendo anche a rischio la loro vita, stanno morendo. Ci sono anche degli operatori umanitari che sono stati uccisi, anche rapiti. Quindi una situazione difficilissima. Yarmouk è irraggiungibile per noi da fuori, per far sì che ci sono gli aiuti umanitari. È per questo che Save the Children chiede alla comunità internazionale di fare tutto il possibile per avere un cessate il fuoco in cui gli aiuti umanitari possono essere si possono mandare in Yarmouk. Ecco, ma secondo te ci sono delle possibilità che chi controlla, quindi ISIS, mi sembra che controlli quasi l'80% di questo campo, che ceda e apra un corridoio umanitario, che ascolti questo appello? Ma guarda, tutte le parti ormai sono ingaggiate in questo conflitto. Dai rapporti che ci raggiungono, ormai tutte le parti stanno sparando uno sull'altro, quindi c'è bisogno di tutto, che la comunità internazionale eserciti tutta l'influenza che ha con tutte le parti, perché quando abbiamo visto in altre circostanze, anche nella Siria, che quando c'era la volontà politica ci sono stati anche dei cessati fuochi locali, ma è l'imperativo umanitario alla fine. Questa è la legge internazionale, non è un'opzione proteggere i civili, è un obbligo. Cambiamo decisamente argomento, ma restiamo all'estero per lo scontro tra Marine Le Pen e il padre. Sono lontani i tempi in cui padre e figlia sfilavano fianco a fianco, abbracciandosi affettuosamente e sorreggendo lo striscione del partito che lui aveva fondato e che lei ha contribuito a portare al successo. Ora in casa Le Pen è guerra aperta. La bionda Marie, presidente del Front National, ha posto il veto alla candidatura del padre Jean-Marie come capolista alle regionali della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il suo obiettivo, dice Marie Le Pen, è nuocermi e lei evidentemente non ha nessuna intenzione di permettere che accada. Negli ultimi giorni l'anziano leader, oggi presidente onorario del partito, ha continuato a ribadire alcune sue vecchie provocazioni, come quella delle camere a gas, che sarebbero un dettaglio della storia. L'ultima, in un'intervista a un giornale di estrema destra, è stata la difesa di un maresciallo capo della Francia collaborazionista con i nazisti. Il suo ruolo di presidente onorario non l'autorizza a prendere il partito in ostaggio, ha spiegato Marie Le Pen in un comunicato ripreso dalle Figaro. Per questo ha annunciato che nella riunione del 17 aprile si opporrà alla candidatura del padre. Se si tratta di difendere il partito, che è un po' suo figlio, Marie Le Pen è decisa a farlo a tutti i costi, anche se questo significa scaricare suo padre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi la presentazione del padiglione di Federalimentare, l'associazione delle industrie di settore, sta seguendo questa presentazione Anna Marino. Anna, buongiorno. Sì Simone, buongiorno a te, sono qui, è ancora in corso la presentazione del padiglione Expo Cibus Italia, una risposta alla domanda mondiale di food and made in Italy, perché proprio qui il vice ministro allo sviluppo economico Carlo Calenda ha voluto affermare e svelare che il padiglione Cibus Italia si affianca al nuovo piano governativo straordinario per il made in Italy, che ha spiegato in 3 punti, prima di tutto la presenza alle fiere di settore come il Made in Italy Tutto Food, poi lo sbarco sul mercato americano e canadese con una presentazione al Columbus Day dell'Italia e infine eventi per tutti i primi sei mesi del 2016. Da notare che al fine prendere contatto con la GDO americana per dare visibilità a prodotti alimentari veri delle piccole e medie imprese italiane, addirittura ci sarà un voucher per l'export manager, spese tutte sostenute dal governo italiano in questa prima fase. Piano che è stato approvato appunto dal presidente di Federalimentare Luigi Scornamaglia, che ha anche appunto detto che certo siamo cresciuti nel 2014 del 2,7%, negli ultimi due anni siamo cresciuti a percentuale doppia rispetto al 2016, ma dobbiamo crescere del 2,5, più del 2,5 del 2,5,6 previsto per il 2015, e l'Expo secondo Scornamaglia sarà proprio il volano. E per ora è tutto. Grazie Anna Marino. Siamo al calcio, perché stasera c'è la seconda semifinale di Coppa Italia. Insomma, sapremo chi affronterà la Juventus, protagonista ieri di un'impresa, Carlo Genti. Sì, Simone, protagonista di un'impresa, Juventus piglia tutto, partiva con la sconfitta di Torino 1-2, aveva bisogno di battere la Fiorentina con due gol di scarto, c'è riuscita, la battuta 3-0, peraltro senza le sue superstar. Buffon e Pirlo non c'erano, Tevez è stato rimandato a casa per un leggero infortunio e si conta di recuperarlo per la Champions League, e Pogba che sappiamo starà fuori per un po'. Ha giocato una partita perfetta la Juventus, forse aveva bisogno di un rodaggio agonistico in vista della Champions League, visto che in campionato si sta allenando. Il 2-0 con l'Empoli non fa testo, nel fine settimana, sabato pomeriggio affronta il Parma, una Juventus che è andata a Firenze decisa a prendersi la finale di Coppa. Adesso c'è chi parla addirittura di triplete, mi sembra un eccesso, però il doblete, quindi campionato e Coppa Italia, sono certamente possibili. Vedremo contro chi. Stasera Napoli-Lazio, Napoli che si gioca forse a formazione migliore con Higuaín e Gabbiadini, 1-1 all'Olimpico, e si aspetta l'altra avversaria per la Juve. Grazie Carlo, e di questo ovviamente si tornerà a parlare in tutti i convocati a partire dalle 14. Tra un attimo torneremo sui temi del DEF, il documento di economia e finanza, e sentiremo il presidente dell'ANCI, Piero Fassino. Torneremo a parlare del reato di tortura e lo faremo con un sindacato di polizia, perché c'è una posizione divergente rispetto a quello che sta andando in Parlamento in queste ore. Ma prima il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. 8.000 evasori totali scoperti, 1 miliardo e 800 milioni di appalti irregolari nel rapporto annuale della Guardia di Finanza. Nella bozza del DEF anche la stima sulla disoccupazione, giù dello 0,5% quest'anno, meno tasse e più lavoro, dice Padoan. Tsipras a Mosca per l'incontro con Putin, sono qua per un nuovo inizio nei nostri rapporti, dice il premier greco. Ancora migliaia di persone in trappola a Yarmouk, campo profughi vicino a Damasco sotto assedio dell'ISIS. Saluto Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Vogliamo parlare con lei del DEF e dei tagli che si prospettano per i comuni, tagli per i quali state protestando in queste ore. Vorrei capire questo innanzitutto: è possibile che non ci siano margini per ulteriori tagli, Fassino? Intanto io dico che c'è un'enfasi mediatica, leggo titoli, guerra, rivolta, sfide, che francamente mi paiono tutti fuori luogo. Noi abbiamo posto una cosa molto semplice, cioè da un lato chiediamo che si dia soluzione ad alcuni problemi che sono tuttora aperti per la gestione dei bilanci 2015, in particolare avendo deciso il governo che la local tax si applica dal 2016 e quindi il regime IMU-TASI nel 2015 è uguale al regime 2014, ricordiamo che nel 2014 quel regime prevedeva un fondo integrativo di 625 milioni per evitare che 1.800 comuni nel passaggio dalle vecchie aliquote IMU alle nuove TASI avessero perdita di gettito. Quel problema c'è anche per il 2015, se il regime rimane invariato faceva parte del regime il fondo perequativo, quindi questa è la prima questione che poniamo. La seconda questione che hanno posto soprattutto i sindaci di Firenze, Roma e Napoli è che il taglio sulle città metropolitane è per queste tre città particolarmente oneroso e si tratta di capire se troviamo una soluzione. Ma come mai questo? Questo ci può aiutare? Ma ci può aiutare a capire come mai c'è questa differenza? Stamattina era ospite da Giovanni Minoli il sindaco Nardella, che diceva: Bologna ha un taglio, mi pare più o meno del 5%, noi abbiamo un taglio del 23%. Perché i parametri che sono stati assunti da chi ha fatto ha ipotizzato questi tagli, sono gli uffici del governo, ha assunto parametri che penalizzano Firenze rispetto ad altre città. Per esempio, Firenze ha un introito di RC auto molto più alto che le altre città e quindi questo ha influito, è una serie di cose. Quindi, ma voglio dire, il problema nostro è quello di fare una discussione serena per vedere come si può dare soluzione a queste tre città, fermo restando che noi per il resto, sia l'accordo che abbiamo fatto sui tagli ai comuni, il miliardo e due della legge di stabilità, sia alcune altre cose, abbiamo convenuto un accordo col governo e per noi questo vale. Quindi sul 2015 noi poniamo due questioni fondamentalmente, la questione dei 625 milioni e la questione di tre città metropolitane che hanno un taglio particolarmente oneroso. Per ciò che riguarda il 2016, noi abbiamo semplicemente detto questo: siccome lei opera nell'informazione, mi sarà buon testimone, in questi ultima settimana tutti i giornali e tutte le televisioni, preannunciando il DEF, hanno preannunciato anche che nel DEF ci sarebbero nuovi tagli agli enti locali. Noi ci siamo permessi di dire: guardate che non ci sono più margini per andare a tagliare in modo generalizzato su tutti gli enti locali, dopo che sono 5 anni che vengono ridotte costantemente le risorse. Quindi vi chiediamo per favore di discutere prima che il DEF sia adottato, per rendere evidente questo e ragionare insieme come fare. Ma i margini... se mi permette, sì, misurate, prego. Di buon senso, sì. Lasci perdere i titoli giornalistici, guerra, sfida, eccetera. Abbiamo dichiarato guerra a nessuno, abbiamo posto due questioni molto concrete che ci derivano dal fatto che noi ogni mattina dobbiamo dirigere dei comuni e vogliamo sapere come siamo in grado di farlo. Secondo lei, rendendo i tagli più selettivi, perché oggettivamente degli sprechi all'interno del mondo dei comuni ci sono? Non si è mai vista. Eh? E fino adesso però non sono mai stati fatti in modo selettivo. No, dico, rendendoli selettivi. Mi fa chiudere la domanda. Rendendoli selettivi, secondo lei ci sono i margini per recuperare denaro? Cioè ci sono margini per fare ulteriori tagli? Noi siamo pronti a discutere. Quello che diciamo è che però fino ad oggi i tagli sono stati lineari e generalizzati senza nessuna selettività. Le faccio un esempio. Si dice dismissione di partecipati, va bene? La città di Torino ha dismesso negli ultimi 3 anni 400 milioni di sue partecipazioni o di dismissioni immobiliari. Va bene? Si è tenuto conto di questo? No. Alla città di Torino sono applicati i tagli esattamente come sono applicati a tutti quelli che delle dimissioni non ne ha fatta neanche una. Allora, e capisce che io sono ben pronto a fare un ragionamento sulla selettività, per adesso non è stata fatta. È stata una premialità per una città che ha deciso di dismettere 400 milioni di sue partecipazioni? No. Quale può essere il meccanismo, secondo lei, tramite il quale... Bisogna discutere dei meccanismi che premino i virtuosi. Mentre noi veniamo da 5 anni, e questa non è responsabilità di questo governo, perché se si trascina da 5 anni è una cosa che è stata praticata da tutti i governi, non c'è stata nessuna forma di incentivazione di premialità ai virtuosi e di penalizzazione per i non virtuosi. Si sono applicati i tagli a chi era virtuoso e a chi non era virtuoso nello stesso modo. Grazie a Piero Fassino, sindaco di Torino e presidente dell'ANCI. E saluto Franco Maccari, che è del COISP. Buongiorno. Il sindacato di polizia. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Cos'è che non vi convince l'ipotesi di varare una legge contro la tortura? Intanto pensi che era cominciata con questo primo articolo. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che commettono. Invece il reato è chiunque commetta, eventualmente ci può essere un aggravante per coloro che sono il testo di legge attuale credo preveda esattamente questo. Ne parlavamo ieri con Walter Verini, che è capogruppo del PD in Commissione Giustizia. Ma ce n'è voluto, perché c'è purtroppo una deriva demagogica da parte di chi l'ha presentato questo testo, che invece è doveroso anche per noi Italia applicare, o meglio avere come ipotesi di reato, è che purtroppo ogni cosa che viene fatta viene impartita da demagogie. C'è il partito dei contro, c'è sempre stato purtroppo, e allora non si riesce mai a fare un ragionamento concreto. Infatti è ancora ferma, è da due anni che si rimpalla. Sì, domani inizia la votazione degli emendamenti. Ieri c'era assicurato un parlamentare del PD, ci ha detto che il capogruppo in Commissione Giustizia, Walter Verini, perché è stato il PD il relatore in Commissione, domani arrivano al voto sugli emendamenti, poi passerà al Senato e in Senato arriva già dal Senato. L'hanno cambiato, la Camera, ritorna al Senato per un'ultima lettura e poi dovrebbe essere legge. Ma c'è qualcosa? Se non ci fossero state farciture tipo questa che le sto per dire, chiunque commetta violenza psicologica, ora immagini la violenza psicologica, come si fa a dargli un concetto? Chiunque può dire mi ha guardato male, io da quel giorno non vivo più, non respiro più, non dormo più, e non mi creda che non sono esagerazioni, perché purtroppo così. Quindi bisogna dare una forma costante alla sostanza. Mi scusi, però ci sono caratterizzazioni specifiche della violenza psicologica, cioè se tu conduci un interrogatorio per esempio ad una persona e la fai spogliare nuda e la piazzi davanti a tre persone, quella è una violenza psicologica. No, quella è una violenza fisica anche. Sì, anche fisica, anche psicologica evidentemente. Il testo parla solo violenza psicologica, e questo è il problema. Bisogna caratterizzare chi ha creato quella norma, l'ha creato con un obiettivo, io ovviamente non lo condivido, che è quello di andare addosso a una certa parte. Invece la norma, la legge, serve per evitare che anche in Italia ci siano situazioni assolutamente aberranti, che non riguardano solo le forze di polizia. Non pensiate, c'è per esempio tutto il mondo della prostituzione, pensate che sia gestito in maniera... così, tanto per dire, con violenza e basta, no, quella è vera e propria tortura, come sono stati, ma ce ne sono situazioni. Sì, ho capito Maccari, però mi perdoni, sarà ben diverso quando la violenza viene commessa da un lenone, quando la violenza viene commessa da un funzionario di polizia che è un rappresentante dello Stato, no? Mi scusi. È esattamente su questo che c'è la discussione, infatti c'è l'aggravante, io prima non l'ho biasimato, ho detto che è giusto che sia così, c'è l'aggravante per coloro che avendo un ruolo e essendo agente ufficiale di polizia giudiziaria commettono quei reati, ma il reato deve essere generico, cioè per tutti, perché è così, perché in tutto il mondo si va contro il reato di tortura. La polizia. Mi dica una cosa, ma allora questa legge che sta andando in Parlamento vi va bene oppure no? Questo non ho capito. Adesso è cambiata moltissimo ed è assolutamente, io però non posso nascondermi dietro un dito. C'è stato un accanimento e c'è ancora il tentativo di accanimento, quindi finché non è finita, io ho paura che anche a seguito di ieri la sentenza e di vari opinionisti che purtroppo sono fuori sempre nel momento meno opportuno, possa esserci qualche coda, quel colpo di coda, che purtroppo in Italia non siamo così. Però se passasse il testo così com'è vi andrebbe bene? Non mi ha ancora risposto. Bisogna specificare quella violenza psicologica, e lo dico a tutela di tutti, non lo dico a tutela solo nostra. Bisogna specificare. Per il resto mi pare che tutto sommato adesso abbia subito assolutamente delle peculiarità per cui il reato assolutamente va bene. Allora, chiaro, finalmente chiara la vostra posizione, no, ci abbiamo messo un po' ad arrivarci, capisco poi che insomma ci siano evidentemente delle questioni da mantenere, ma perché non mi voleva rispondere? Io? Sì. No, guardi, è dall'inizio che dico, c'è l'aggravante specifica, è giusto che sia così, ma io non le voglio rispondere perché intanto non so chi, mai quando mi trovo a parlare, mi creda, ci sono dei lupi travestiti da agnelli, è un accanimento totale, io non posso nascondermi dietro un dito, io rappresento e le dico che in questo momento c'è un momento in cui per paura di sbagliare, attenzione, la polizia rischia di fare un passo indietro piuttosto che un passo in avanti. E allora io lancio l'allarme e dico che è giusto colpire i violenti e colpire coloro che sbagliano, ma attenzione a generalizzare questi attacchi. Lei dice il rischio è con questa legge è che noi non riusciamo più a fare niente? È in generale, perché non vede quando Liverpool ha massacrato Roma, siamo stati attaccati perché non siamo intervenuti. due giorni prima eravamo intervenuti, siamo troppo cattivi. Lei capisca che questo stillicidio costante e continuo contro, e la parola contro non è usata apposta, non è usata a caso, finisce per demotivare e finisce anche per creare delle ansie. Se poi io non credo che abbiamo il tempo, ma le dovessi dire che solo nell'ultimo anno più di 100 poliziotti sono stati denunciati e 99 sono stati archiviati dopo due anni di indagini e non c'era assolutamente nulla, solo perché qualcuno ha alzato il ditino e ha scritto la denuncia, lei capirà che bisogna stare attenti, colpire i responsabili va bene, uno stilicidio di questo tipo rischia di mettere a dura prova l'apparato. Se poi sommiamo che mancano mezzi e uomini e dobbiamo anche sopperire con lavori tripli, mi creda che in questo momento è un pochettino più difficile lavorare, assolutamente. Grazie Franco Maccari del COISP, il sindacato di polizia, buona giornata. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa e poi nella seconda parte della trasmissione sentiremo Giuseppe Cavallaro, chi è il figlio di Antonio Cavallaro, il pensionato picchiato da un tassista romano in piazza Barberini per aver parcheggiato la sua auto occupando in parte il parcheggio taxi. Aveva parcheggiato là perché doveva prendere un farmaco salvavita per un altro figlio down. Ebbene, Giuseppe Cavallaro denuncia, guardate che in quel momento gli altri tassisti hanno coperto il tassista che ha picchiato violentemente il padre e gli hanno detto vai via che qua tira una brutta aria. Parleremo con Giuseppe Cavallaro tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Sono 8.000 gli evasori totali scoperti, 1.800.000.000 di appalti irregolari nel rapporto annuale della Guardia di Finanza. Emergono nuovi dettagli dalla bozza del DEF, la spending review si focalizzerà su partecipate e pensioni di invalidità, tra le altre cose. Tsipras a Mosca per l'incontro con Putin, sono qua per un nuovo inizio nei nostri rapporti, dice. Ancora migliaia di persone in trappola a Yarmouk, campo profughi vicino a Damasco sotto assedio dell'ISIS. La borsa. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo. Allora, innanzitutto partiamo con qualche aggiornamento, iniziando dalla Grecia, perché arrivano dettagli ulteriori dall'incontro che si sta svolgendo oggi tra Alexis Tsipras e Vladimir Putin. Il governo russo ha già preparato alcune proposte a favore della Grecia a proposito dell'embargo ai prodotti alimentari occidentali, deciso come risposta alle sanzioni per la crisi ucraina. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che, ve l'abbiamo raccontato nella prima parte della trasmissione, Alexis Tsipras è in visita a Mosca e sta incontrando Vladimir Putin per discutere di vari argomenti. All'ordine del giorno si è chiarito fin da subito, non c'è un prestito russo ad Atene, ma certo c'è dal punto di vista politico un tentativo di riallacciare le relazioni e in qualche modo forse da parte di Tsipras cercare di far paura a Bruxelles. Dovremmo avere in linea Giuseppe Cavallaro, buongiorno. Buongiorno. È un avvocato sì. Ed è figlio di Antonio Cavallaro, che è il sì. pensionato che era stato picchiato dal tassista romano in piazza sì. Barberini. Aveva parcheggiato la sua auto occupando in parte il parcheggio taxi, lasciando, da quel che ho capito, avvocato Cavallaro, suo fratello sì. e quindi il sì. figlio di Antonio Cavallaro in macchina, che è affetto a sindrome di Down, doveva prendergli un farmaco salvavita, parcheggiato là, è andato dentro quando è avvenuto il fatto, mentre usciva andava verso la farmacia e questo... lui ha chiesto l'autorizzazione ai tassisti presenti di poter andare in farmacia a comprare questo farmaco, convinto che gliel'avessero data tutti. Poi è sceso questo energumeno dalla macchina, lo ha preso da dietro, l'ha strazzonato, gli ha dato forse un pugno e poi l'ha buttato a terra e lo ha lasciato lì col femore rotto, il zigomo fratturato e varie scoriazioni. Quando, che tempi ci sono per l'uscita dall'ospedale di suo padre? Minimo 40-50 giorni. Minimo 40-50 giorni. Senta, avvocato, lei ha fatto un racconto, ed è per questo che la chiamiamo, perché la storia appunto è di mercoledì, l'abbiamo raccontata anche nei nostri giornali radio, però lei ha raccontato di una sorta di copertura offerta dai colleghi... Non c'è bisogno di raccontarla, basta vedere il video e aver sentito le poche parole che mio papà mi ha potuto dire. In altre parole, lui ha sentito che quei due tassisti, uno sicuramente dei due, ma tutti e due gli hanno detto scappa scappa, che tira una brutta aria. Quindi è andata così, c'è stata effettivamente una copertura. E guardi, se lei vede il video, quei due tassisti rimangono fermi a guardarlo e a dire qualcosa al tassista. Non credo che gli abbiano detto sei un cretino, va, rimani qua. Né hanno chiamato l'ambulanza, come vedete, né hanno chiamato le forze dell'ordine, né quando sono arrivato io sono arrivato lì 5 minuti dopo, si sono avvicinati per dirmi chi era il tizio, che targa aveva, che loro davano la loro solidarietà a me e alla mia famiglia. Niente. Quindi più di questo? Niente di, niente di tutto ciò sostanzialmente. Avete denunciato anche loro? Procederò, sono appena uscito dalla procura, adesso devo tornare in studio, devo studiare alcune cose e poi vi farò sapere quali sono le determinazioni che ho preso. L'ipotesi però mi sembra di capire una denuncia per favoreggiamento. Lo dirò nel momento opportuno, perché devo valutare alcune cose ancora. Io in questo momento ho una triplice posizione, sono figlio, fratello e avvocato di queste persone che sono rimaste scioccate e infortunate, chiamiamolo così, lese da questa situazione. Però è un'ipotesi che state vagliando, però. Sì, sì, sicuramente chiederò di agire nei loro confronti. Il reato ancora non l'ho deciso, lo deciderò in queste ore e lo scriverò, lo depositerò domani al PM competente. Posso solo dire che ringrazio la Procura di Roma, in particolare il dottor Pignatone, per la dimostrazione di solidarietà che mi ha fatto personalmente e per gli auguri di pronta guarigione che ha fatto a mio padre e per l'attivazione subito di un suo sostituto competente che agirà nel più breve tempo possibile. Ultima domanda, i soggetti sono due? I tassisti che io ho visto sì, sono due. La ringrazio, grazie all'avvocato Giuseppe Cavallaro, Traffico.